detto semplicemente Down Lovers è un media, quindi significa che come per la televisione commerciale è possibile vedere dei film vedendo però anche degli spot durante la trasmissione, Down Lovers ha lo stesso modello e quindi è possibile scaricare musica gratuitamente osservando uno spot, un video, un commercial che scorre durante il download del brano stesso. Quindi a fronte di questo spot pubblicitario gli utenti possono scaricare musica gratuitamente e legalmente. Un modello di business molto semplice. Un modello molto semplice che naturalmente ha tutta una serie di caratteristiche. Io le vorrei fare alcune domande su che cosa poi troviamo all'interno, con che qualità, in quale quantità, come può essere utilizzata, le limitazioni eccetera eccetera, perché quando parliamo di musica parliamo di un mezzo di comunicazione, perché anche questo è un mezzo di comunicazione molto particolare. Beh, diciamo subito qualche cosa sulla qualità. Che cosa scarico, degli MP3 o qualcos'altro? No, scarica dei Windows Media Player, che sono quelli che consentono alle major di avere un maggiore livello di sicurezza. Si tratta quindi di un sistema di gestione dei diritti digitale che da un lato è più sicuro per le major e dall'altro consente anche comunque agli utenti di poter scaricare questi brani e di poterli conservare sul proprio PC tranquillamente e riascoltarli quante volte gli si vuole. Che cosa posso farci con queste canzoni? Perché quando parliamo di musica, se io scarico illegalmente o copio illegalmente quei file, poi posso spedirli, passarli ai miei amici, farci un po' di tutto. In questo caso, visto che comunque, come lei ha sottolineato, esistono delle limitazioni determinate dal sistema di gestione dei diritti, quali sono le limitazioni? Che cosa non posso fare? E in questo caso non può passarli agli amici, non può utilizzarli, diciamo, per utilizzi che sono al di fuori del sistema del PC su cui vengono scaricati. Il vostro obiettivo è quello di avere tutti i dischi, quindi anche le ultime uscite, le ultime novità, oppure no? Sicuramente sì, c'è da fare una riflessione sul mondo della musica. Il mondo della musica è un mondo in cui contano moltissimo le hit, però contano forse molto meno, ed è un mondo in cui la coda lunga è molto importante, quindi è importante avere tantissimi generi e quindi stiamo lavorando sia per avere le novità ma sia per arricchire anche il catalogo dal punto di vista dei generi, quindi dall'hip hop al rap al metal al latin e quanto c'è in questo in termini sì, di offerta. Per coprire le nicchie. Le nicchie, esatto. Senta, la famosa coda lunga. Sì, sì, sì, senta, la qualità audio, io ho visto che almeno ho scaricato alcune canzoni che erano a 192K, quindi una buona qualità. Sì. La qualità è omogenea o cambia? La qualità è omogenea a 192K, sì.